soli senza farci del male. Una goccia di freddo corre lungo la schiena. Tu rivedi il copione, cambia tutta la scena. La luce ci distolga i pensieri.